Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le spalline erano voluminose, i giocattoli tutt'altro che tecnologici, e non si diceva digitare ma battere a macchina. Il passato sta anche nelle cose, nei cimeli di un mercatino vintage. Mi ricordo i famosi biscotti della nonna dentro le scatole di latta, e avevano un sapore migliore di adesso, secondo me. Un oggetto funzionale come un bene di servizio che poteva essere il telefono diventa anche un oggetto di design e di arredo, come il telefono Cobra. Vi state rendendo conto che abbiamo artificialmente costruito un tempo tarocco, una storicizzazione inesistente? Vi rendete conto che ciò a cui noi diamo valore è come se appartenesse a quelle rievocazioni storiche, quando in alcuni paesini, in alcune città con un passato medievale, si ricostruisce un colpo d'occhio di un passato inesistente, signori improbabili con gli occhiali, con orologi al polso, si vestono da paggetti medievali, signore si mettono e fanno il ballo delle dame di corte? È qualcosa che fa sorridere, ma perché è qualcosa pensato, immaginato da delle proloco con strumenti culturali molto limitati, che serve per fare una sagra della porchetta o del carciofo fritto o qualcosa in più. Beh, tutto questo trasformato su un piano industriale, su un piano di marketing, su un piano di costume, si riduce in una parola che possiamo riassumere con il termine vintage. Tutto ciò che è vintage ha un valore, benissimo, si va dai mercatini ammuffiti a comprare abiti macchiati, stinti, puzzolenti, che hanno un valore, abiti che le nostre mamme, le nostre nonne hanno buttato nei cassonetti da generazioni, hanno fatto giri inverosimili e sono riapparsi come oggetti di valore. Perché? Perché sono segnati dalla storia, sono segnati dal passato, sono segnati dalla rarità. La rarità e naturalmente la scarsità conseguente, perché ce ne stanno pochi, si immagina, quando ormai ci sono magazzini pieni. Ci sono persone che ricostruiscono oggetti vintage. Perché? Perché il passato ha un valore e ciò che è scarso, ciò che è rappresentato come unico, ha un valore immenso. Beh, voi cosa avete di scarso a cui date un grande valore? Cosa tenete gelosamente custodito perché pensate che valga, in quanto ce ne sono pochissimi? Perché comprate quella paio di scarpe, quell'occhiale o quella camicetta che è scritto e sottolineato con edizione limitata? C'ho il telefonino edizione limitata, è uguale all'altro, c'ha magari, non so, un pezzetto di plastica diverso, improvvisamente ha un valore perché ci sono pochi. Beh, la scarsità è sempre stata contraddistinta da qualcosa che richiama la micragna, la paura, la miseria. Oggi la scarsità è un grande valore. 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Mi chiamo Enrico Maltoni e abito Forlì in Popoli, e dal 1987 ho iniziato a collezionare macchine per caffè espresso da bar. E la passione nasce ad un mercatino. Per puro caso ho acquistato la prima macchina e da quel giorno ho cominciato a appassionarmi, direi anche un grande amore che continua da oltre 20 anni, cercando le macchine per il caffè in tutti gli angoli del mondo. Poi in questi ultimi anni ho scoperto eBay, che mi ha aiutato tantissimo ad ampliare la mia collezione, che oggi conta oltre 100 macchine. Certo, poi questo va a scontrare con la sindrome dell'accumulo, le case piene di oggetti che apparentemente non hanno nessun significato, ma per chi li ha cercati, li ha collezionati, li ha scovati in posti improbabili, hanno un grandissimo valore, perché sia una sorta di camera delle meraviglie in cui gli oggetti rari, gli oggetti preziosi vanno a popolare quello che è un piccolo museo familiare. Non è tanto del collezionismo che questa mattina vogliamo parlare, ma del valore che viene dato alla scarsità. Mi sono accostato da poco a questo problema guardando un libro che mi è arrivato proprio ieri, quindi ce l'ho fresco in mano. È un libro edito da Franco Angeli, Il fascino indiscreto della scarsità. L'autore è Stefano Sacchi, che è un esperto di marketing, è consulente per vari brand, insegna, è docente presso l'Accademia del Lusso, ha scritto un libro molto interessante che tratta due aspetti diversi legati appunto al concetto di scarsità. Da una parte quello classico, ciò che è scarso, ciò che è raro naturalmente, è degno di essere posseduto, è prezioso perché ce ne stanno pochi. Ma questo concetto, se non ho capito male il senso del libro, in realtà è diventato un valore fortissimo nel marketing contemporaneo. Facciamo un esempio per i più appassionati di informatica. Vi siete resi conto che molte app hanno un grande valore perché riproducono qualcosa che in realtà non esiste più? Se io voglio scaricarmi un player per ascoltare la radio, molte volte ho la ricostruzione virtuale di una radio, lo dico la cosa più vicina a me, ma di una radio sempre comunque datata, segnata dal tempo, una radio antica, una radio che non ha nulla a che fare comunque con quello che oggi noi usiamo e classifichiamo come oggetto radiofonico. La stessa cosa vale anche per tante piccole cose. Io vedo nel libro qua in mano una cosa che mi sembra paradossale, delle confezioni di quelle capsuline, per rimanere in tema con quello che diceva prima l'intervistato, di capsuline per farsi il caffè espresso, di una delle marche più famose, che per il Natale 2015 fornirono un'edizione limitata. Io compro la capsulina del caffè, che è un pezzetto di plastica che infilo una macchinetta, ci fa uno schizzo d'acqua bollente, mi esce fuori un caffè, ha più valore perché è edizione limitata. Nel mio immaginario immagino questo caffè che è andato, è stato preso con le mani nude dei raccoglitori di caffè, tostato a mano dalla nonna brasiliana, qualcosa del genere, adesso non so che pensare, messo con cura dopo essere stato annusato da un caffeomane, nelle capsuline che hanno magari una plastichina un po' diversa, il cartone è meglio, c'è scritto sopra edizione limitata, quindi questo ha un grande valore. Ecco, perché date valore a ciò che è scarso, senza porvi il problema che in realtà è una grande contraffazione, ma contraffazione è un termine brutto, è un grande addomesticamento del vostro gusto fatto da chi poi vi fornisce i prodotti. 800240024. Buongiorno Stefano Sacchi. Buongiorno. Confesso, ho il suo libro nelle mani da sì. Ieri sera tardi. Ho interpretato male quello che lei sta cercando di raccontarci? No, no, assolutamente, nella maniera più corretta. Il testo nasce proprio dall'osservazione della realtà e anche dall'esagerazione che abbiamo appena vissuto alle spalle, lasciandoci alle spalle Expo 2015, un Expo quasi completamente dedicato appunto all'alimentazione, dove è stata la fiera delle edizioni limitate. Sembrava che non ci fosse nulla che non potesse essere in edizione limitata. Quando alla fine sono più le edizioni limitate che quelle tradizionali. Assolutamente sì, e quindi il food rappresenta per eccellenza un prodotto di massa, e quindi il fatto di voler in qualche maniera erigere un baluardo e quindi far emergere dei prodotti solo in quanto fregiati di edizione limitata mi sembrava quantomeno assurdo. In realtà poi da una visione un pochino più approfondita della realtà possiamo appunto vedere che in realtà sono proprio questi consumatori di massa e questi consumi di massa che abbisognano di differenziazione, perché non ci piace più l'idea di avere il caffè, come diceva giustamente lei, che bevono tutti, ma vogliamo l'edizione limitata, perché anche su un consumo di base, di massa, assolutamente massificato, abbiamo la necessità di bere un caffè che si presenti sotto una versione differente. E quindi da qui nasce un insieme di elementi, un insieme di strategie studiate a tavolino dai esperti di marketing che accanto ai prodotti tradizionali associano delle edizioni limitate. Succede per le capsule di caffè, succede per la Coca-Cola che viene di fatto cioè cambia la bottiglia, cambia la bottiglia perché dentro sempre la stessa roba. Vengono disegnate da questi stilisti, e quindi il packaging ha una nuova versione che è presente sul mercato apparentemente soltanto per un certo periodo di tempo, o comunque in un'edizione che viene dichiarata limitata, salvo poi non esserlo più di tanto, e che è destinata a diventare un oggetto per uno pseudo collezionismo minore, insomma. Ecco, diciamo che questo atteggiamento del culto di ciò che è scarso, ciò che è lontano, naturalmente poi in genere anche delle varianti e delle derive del gusto. Già mi scrive un ascoltatore prendendosela con me, dice: tu deniri il passato, le cose passate, le cose vecchie sono le migliori, vuoi mettere la qualità di un televisore anni 70, non è nemmeno lontanamente paragonabile a un odierno, come gli obiettivi, quale cazzo di scarsità. Vede che questo è già contaminato in pieno, la roba vecchia è meglio. Io direi a un tecnico: metti un televisore degli anni 70 vicino a uno di oggi, che ci fai? Non ci fai nulla di quello che fai oggi con un televisore, che è infinitamente più complesso, però perché vecchio è meglio, le buone cose fatte come una volta. Nel marketing diciamo che negli ultimi anni si è assistito tantissimo allo sviluppo di strategie che si chiamano di heritage o heritage marketing, che si basano proprio sulla storia dei brand, sul loro passato, su tutta quella che è l'iconografia tipica di certi prodotti. E come in dicessi, realtà, questa trasmissione Eredi Nicoletti dal 1983, così. Esatto, tutte queste diciture, casa fondata nel, eccetera, eccetera. E questo praticamente sottolineano una sorta di promessa fatta al consumatore anni or sono, che ancora è un valore, quindi ci si affida con maggiore, diciamo, così, fiducia a marchi esistenti o a situazioni esistenti, piuttosto che vedere e quindi cercare di incontrare e acquistare dei brand nuovi. Questo è quello che succede appunto nelle strategie di heritage marketing, che ormai hanno invaso completamente il mercato. Però bisogna, secondo me, fare riferimento ha una grande differenza. Un conto sono i valori fondanti di un brand, quindi sono gli elementi anche grafici che ricordano il passato. Un conto è invece l'evoluzione, quindi gli elementi evolutivi. Oggi il vintage in sé ha poco significato, dovrebbe essere un punto di partenza, non un punto di arrivo. Quindi, cioè, il vintage va bene come idea ispirativa, anche nella moda, se vogliamo, ma non ha senso produrre delle collezioni vintage, quindi industrializzare il vintage. Tutto deve essere reinterpretato, tutto deve essere in qualche maniera rivisto alla luce dei nostri tempi. Io non la sono assolutamente un esperto. La Volkswagen che fa il maggiolino, per esempio, non ha bisogno di fare il maggiolino per forza, ma lo fa perché cavalca quest'onda del vintage e anche del marketing della nostalgia. Ma è ovvio che il maggiolino di oggi ha delle performance assolutamente moderne. Sì, a poco del maggiolino, eccetera, è chiaro. Eccetera. Però rimane l'idea che, comunque, questo è il concetto che più mi affascina del suo libro, che ciò che la mia generazione considerava micragnoso, mi passi il termine, cioè da vergognarsi, mettere un vestito smesso di un genitore o di uno zio più grande, oggi per un certo periodo di tempo non credo che esista più questa cosa qui, è ridiventato improvvisamente di moda, qualcosa che è da, come non so, la transeunte è oggi denigrabile moda dell'hipster. L'hipster altro non è che un boscaiolo che andava di moda negli Stati Uniti negli anni post-depressione o qualcosa del genere, adesso non ce l'ho ben chiaro. Improvvisamente questi barboni da frate francescano sono diventati qualcosa, sembra modernissimo, improvvisamente. Ma quanto dura il valore della scarsità e quindi del vintage? Ma in questo caso è veramente un fenomeno, quello degli hipster, dei geek, di tutti questi gruppi, degli emo anche, sono appunto gruppi e quindi fanno più parte proprio di un fenomeno tipicamente fashion, quindi moda. La moda cambia stagionalmente, ha bisogno di nuovi flussi, ci sono spesso delle derive e quindi c'è anche una cultura del gusto che si è rinnovata tantissimo, ha subito più involuzioni che evoluzioni. Oggi ci piace tutto quello che fino a qualche anno fa ci faceva orrore. Le pubblicità fanno vedere delle modelle che sembrano abbiano i capelli sporchi, che non siano particolarmente in salute, quindi cioè, effettivamente è la cultura del più gusto che è cambiata, non c'è neanche più la ricerca del bello inteso proprio secondo quello che ci è sempre stato insegnato, perché comunque anche l'estetica è cambiata e ai ragazzi che vivono nel poliestere cosa gliene frega della seta e del cashmere. Cioè, fondamentalmente le aziende che producono moda sono molto abili in questo e producono quindi a costi ridotti articoli che vengono sempre a prezzi molto alti. Anche il fast fashion, questa grandissimo fenomeno di colossi che producono a 2 lire, a 2 euro i capi e quindi globalizzano la moda nel mondo, ha portato a rievocare, quindi a riscoprire delle tendenze passate e a proprio degli archetipi di immagine passata. Allora, Stefano Sacchi, ci fermiamo solo un istante per dare la linea di informazione della borsa, molto importante, vorrei che riflettesse in questi minuti di pausa e di notizie della borsa sul fatto proprio della deriva anche dei luoghi di acquisizione della scarsità. Quello che ha detto lei adesso mi fa pensare che oggi nel mercatino dove si comprava la robaccia usata si compra il vestito che sembra esattamente un vestito che si compra soltanto in una boutique esclusiva, ma te lo vende il signore del Bangladesh, te lo fa pagare 5 euro e c'è scritto un'etichetta, addirittura c'è scritto tutto puro cotone o pura seta, quando magari è lontanissimo da questa composizione. 800 24 0024, a tra un istante. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, Cronache Meridiane. incontrato il signor Gaspare Vella, postino in pensione, che ci ha aperto le porte di casa sua per mostrarci la sua collezione di ditali da sarto. Negli anni l'appassionato pensionato è riuscito a raccoglierne oltre 120. E mi sono messo piano piano a collezionare questi ditali perché io prima la mia passione era il sarto e usavo il ditale. Dopo sono andato a fare il portalettere e questa passione mi è rimasta come collezionista. (800) 24 0024, stiamo parlando del Fascino indiscreto della scarsità, che è il libro di Stefano Sacchi, edito da Franco Angeli, che ci fa capire come oggi i meccanismi di marketing di proposta di prodotti devono ammantare le cose che più a noi devono piacere di una sorta di fascino di rarità, di scarsità, le edizioni limitate. Anche mi fa riflettere un ascoltatore che anche le offerte esclusive, esclusiva vorrebbe dire che non è per tutti, anche le cose per pochissimi intenditori, anche i viaggi che ci vengono proposti per tu che sei uno che ne conosce e che ne sa, ti offriamo questa occasione perfetta, una bellissima stanza con una vista mozzafiato per pochissimi soldi, ma la diamo a te perché sappiamo che tu apprezzi queste cose, ecco, ma siamo convinti che in realtà chi ci fa questo tipo di offerta ci apprezzi per quanto la nostra raffinatezza, il nostro gusto, la nostra esclusività, quando oggi è una nuova maniera per massificare un'offerta, dargli un alone di esclusivo. Vincenzo, buongiorno. Salve. Ti sto ascoltando. Io la sento molto molto male, mi spiace, perciò... Comunque niente, io volevo dire che fondamentalmente io non colleziono oggetti vintage, però utilizzo oggetti vintage per un fatto di qualità. Non so, dicevo prima alle centraliniste, il monitor del mio computer è stato prodotto nel 1992, è un CRT, io l'ho comprato usato 15 anni fa. Beh, si vede che non devi fare nessun... Il LCD durerebbe tanto. Sì, ma non devi fare lavori di grafica, non hai necessità di vedere... Ma non è vero, perché la qualità di quel monitor non ha assolutamente nessun tipo di paragone con nessuno dei nuovi monitor che si possono comprare. Cioè, quello era un monitor da studio d'architettura, un 22 pollici CRT, pesa pure 40 kg. Cioè, per dire... Può essere, tasse, sì, non sono del mio un tecnico. Sono del 1982, le ho comprate usate, ma perché... Io le ho pagate 500 euro queste due casse, se avessi voluto comprare una cosa della stessa qualità avrei dovuto spendere sui 6-7 mila euro per avere la stessa qualità, per dire. Quindi diciamo è una maniera anche per avere realmente dei prodotti di qualità, però questo deve essere supportato da una capacità di individuazione nel grande mercato del vintage, dell'usato, dell'esclusivo, con le cose che sono fuori da un mercato ma hanno lo stesso una qualità. Stefano Sacchi, rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore, che in realtà esiste una terza via rispetto al denigrare e a fare lo sguardo di sufficienza, come spesso faccio io, o ingrupparsi nelle file di chi vuole comprarsi l'ultimo telefonino edizione limitata. Ecco, questo ascoltatore dice: io ho realmente la capacità di discernere, ti dico che il monitor di 10 anni fa è meglio di quello di oggi, come le casse, non ho strumenti tecnici per controbattere, ma lo do per buono. Anch'io non, nel caso specifico dei computer, degli schermi, non posso essere d'aiuto. Ho qualche dubbio perché il mio Mac di 3 anni fa già non si interfaccia con quello che ho comprato un mese fa, però comunque vero, va bene. Sì. No, certo, però è altrettanto vero che siamo abituati a una società di uso e consumo e quindi di facili cambiamenti, di aggiornamenti anche ai nostri telefonini che ce li rendono inutilizzabili a breve, quindi effettivamente la qualità di un tempo oggi non la si ritrova più, anche nel tessile, anche nella moda, diciamo che quindi in parte non voglio dire che il signore ha ragione a tutto tondo, ma sicuramente ha un fondo di verità quello che sta dicendo, cioè l'attenzione alla qualità oggi è presa un po' sotto gamba, si dovrebbe andare in altri orizzonti e verso altre come si dice, dovremmo discutere per ma questo per l'hai notato Made in Italy sia veramente Made in Italy così importante e così pieno di tutto quello che ci viene detto, no? Nel senso senso che non sia il made in Italy in China fatto dal cinese sotto casa che casualmente vive in Italia. Quindi anche lì, insomma, è tutto un discorso che andrebbe affrontato con le dicevo Stefano Sacchi, lei ha notato anche la crescita di una nuova mitologia legata appunto al gusto della scarsità, ad esempio che gli oggetti di comune uso, soprattutto gli oggetti della categoria consumer come telefonini o anche alcuni elettrodomestici, c'è questa leggenda che abbiano una sorta di orologio biologico stabilito, il telefono di quella tal casa ti dura soltanto un anno e mezzo e quel frigorifero è sigillato perché si rompa entro una certa data, quindi lo ricompri nuovo. È un po' come i mutanti di Blade Runner, i cloni di Blade Runner, che gli si dice devi morire perché sei programmato per morire. Questo umanizza comunque i nostri oggetti non esclusivi, ma esclusivi in quanto condannati a morire, come ci fosse questa sorta di condanna su di loro. In un certo senso, sì, ha ragione. E comunque risottolinea anche il fatto che oggi, come oggi, tantissimi di questi oggetti di consumo hanno a priori una durata limitata, quindi una scadenza predefinita, cosa che invece in passato non era, e quindi comunque siamo tentati talvolta di vedere negli oggetti passati una maggiore qualità, come dicevo. Senta, adesso mi deve dare una sua lettura. Sto guardando, mi viene da ridere, la foto da un suo libro, una nota marca di tè, che già, ve lo dico, l'estate, tanto è inutile, che già c'è nel titolo l'estate, però c'è una summer edition, cioè l'edizione esclusiva per l'estate, ma l'estate, se non l'estate, quando devo berlo? Quando lo si beve, lo so, ma l'estate è stata infatti è uno dei casi che è citato nel testo, ma insieme a tanti altri, mi viene in mente anche, senza voler fare il nome della marca, una serie di gelati che vengono proposti ogni estate, addirittura ispirati ai sette peccati capitali, in limited edition solo per quell'estate, quindi ormai queste edizioni limitate hanno veramente travalicato le regole anche di buon senso e sono diventati veramente degli specchi per le allodole, esclusivamente creati allo scopo di attirare i consumatori verso qualcosa di veloce. Poi il fatto che siano in edizione limitata in realtà crea solo quella tensione nel processo decisionale d'acquisto che si può superare esclusivamente acquistando subito, velocemente e acquistando magari anche di più. E se no arrivano gli altri, te lo portano via perché tutti lo vogliono, questo è il fatto. Come le capsule per il caffè di cui parlavamo, no? Però scusi, ma questa è la tecnica dei vecchi bonitori di paese che dicono soltanto ai primi 10 darò questo medicamento miracoloso che vi salva la vita e tutti lo vogliono perché no soltanto 10 boccette. Ci dovrebbe far riflettere sul fatto che comunque il mondo del commercio non è poi così cambiato. Ci siamo affinati sui mezzi, ma fondamentalmente le tecniche sono le stesse. Sentiamo Lorenzo. Lorenzo, buongiorno. Ah, buongiorno. Quello che penso io è che dobbiamo categorizzarci. Praticamente acquistando degli oggetti veniamo collocati in una categoria che al vertice è un prototipo. Quanto più abbiamo oggetti, che tendenzialmente sono sempre gli stessi ma cambiano ciclicamente, quanto più ci avviciniamo al prototipo, al vertice della categoria. E questo è, secondo me, quindi è un cammino iniziatico di perfezione, di raggiungimento dell'assoluto, comprare l'edizione limitata. Sì, perché possiamo dato che gli strati sociali sono permeabili, quanto più valichiamo questi strati, quanto più gli altri credono che noi siamo, come posso dire, appartenenti a una categoria superiore. E quindi gli oggetti ci rappresentano in qualche maniera, noi siamo sottomessi agli oggetti, che periodicamente sono sempre diversi e ci spingono sempre più in alto, ma secondo me tendenzialmente è un'allucinazione perché sono sempre più o meno le stesse cose, sempre gli stessi cavatappi, sempre le stesse forchette, il cellulare è quello, usiamo sempre le stesse funzioni, però è importante che gli altri ci vedano come ha acquistato il cellulare nuovo, vuol dire che è maggior sopravvivenza. Questo accadeva prima che fosse diffusa, almeno alle nostre latitudini, in maniera così massiccia, anche la merce dell'IKEA. Quando uno c'ha un servizio di piatti l'IKEA, tu dici, oh, che bello, che carino, che stupendo, sembra design. Poi dopo qualche anno, quando lo si vede dappertutto, è come una volta ai miei tempi si diceva l'hai comprato alla standa. Lorenzo, buongiorno. Lorenzo ha parlato, Alessandro. Pronto, sono sì, io. Alessandro, sì. Sì, sono Alessandro da Lugano. Sposo appieno quello che state dicendo, no? Perché ovviamente quando sento dire offerta esclusiva così, a meno che non sia l'edizione limitata della Ferrari Enzo, è veramente una cosa banale. E infatti io mi ricordo particolarmente due pubblicità, uno di un disco che stava per essere lanciato sul mercato e uno di un room, che dicevano rispettivamente in vendita anche nei peggiori negozi di dischi, e quella del room diceva in vendita nei peggiori bar di Caracas. Ah sì, me lo ricordo, certo. Ecco, questa originalità, fuori dal solito schema trito ritrito, mi aveva colpito molto, mi aveva incuriosito, mentre il resto niente. Sì, in questo caso aggiungeva un valore, il rum legato a qualcosa legato alla trasgressione, al viaggio, all'essere pirata e corsaro nei peggiori locali, dava quell'idea che... Mamma mia, che cosa trasgressiva bevendomi il rum che si pubblicizza in televisione. Va lo stesso per il disco, vuol dire è una musica che ti mette al di fuori dei circuiti commerciali. Ci fermiamo solo un istante. Melog, cronache meridiane. Stiamo ragionando sul valore dell'edizione limitata, sul valore della scarsità, quella che Stefano Sacchi, che è un uomo di marketing, ha scritto nel suo libro Il fascino indiscreto della scarsità, edizione Franco Angeli. Abbiamo un ascoltatore, Stefano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Stefano. Io per esempio pure vedevo qui una frase che poi ha detto uno di voi, quello che parlava dei computer, sì. Quella pure è una cosa che è ormai riciclata da 50 anni, che gli oggetti di una volta non sono, gli oggetti di adesso non sono più come quelli di una volta. Sì, dice anche mia nonna, il mio vecchio frigorifero Bosch, sì, quello ormai, sì, mi è durato 30 anni, faceva acqua da tutte le parti. Sui computer, ecco, per esempio, ciò che praticamente era magari d'epoca, ciò che era degli anni 50, 60, adesso sta diventando d'epoca ciò che era degli anni 80, perché la gente pure magari, e anche il fatto che già in partenza, ciò che era già in partenza, come pure avete parlato del maggiolino, per esempio, del Volkswagen maggiolino. Sì, io l'ho posseduto, mi sentivo sfigato perché era l'unica macchina che potevo comprare a 500.000 lire quando feci il primo lavoro, ecco. A me invece piaceva un frego, ma per esempio il maggiorino, quello che è cabriolet, addirittura è diventato, ho visto un'altra inserzione, 15.000 euro, perché chi vince sono fuori dallo standard. Sì, sì, perché qualcosa già allora costava parecchio, qualcosa raro. Quindi già quando compravo qualcosa... Sì. Per esempio, già pensavo, speravo sempre, per esempio, comprare un motorino sperando che diventasse d'epoca, poi era, sembrava nuovo, però il fatto che la ditta aveva chiuso, non c'erano più i ricambi, dovetti buttare. Così pure a volte ho cominciato a comprare, adesso sento a collezione. Guardi, non me ne parli, io l'altro giorno ho visto recapitare qui da me una marmitta della 127 del professor Chiappini, che è un collezionista di auto vintage, gira con una 127, macchina da Umarell, che però ha un valore. Io mi vergognavo della 127 ai tempi in cui giravano ancora le 127, oggi è una gran figata andarsene in giro con la 127. Stefano Sacchi, come vede, cominciamo a maneggiare con lucidità, è come se ci svegliassimo da una sorta di ipnosi, quello a cui noi diamo valore. Ritorniamo un attimo sul vintage, che è una parola che secondo me è diventata vintage, nel senso che ormai puzza un po' di vecchio dire vintage, c'è vero? C'è molta confusione anche sul vintage, perché in realtà il vintage, che è un termine che si rifà al termine francese vendange, quindi alle vendemmie delle migliori annate, in realtà dovrebbe andare a coprire soltanto quegli oggetti o comunque quelle tendenze che hanno al loro interno dei materiali non più utilizzabili, quindi che sono lo specchio di un tempo e che quindi hanno un valore proprio per la loro rarità e proprio anche per l'utilizzo di materie che oggi non sono più in circolazione, come la bachelite, o comunque sono oggetti che, ripeto, sono stati lo specchio di un tempo passato e del prestigio di un tempo passato. La borsa di Hermès con il nome appunto di Grace Kelly, la famosa Kelly, o Birkin, quella ispirata a Jane Birkin, quindi veramente dei pezzi, delle milestone del fashion, quindi proprio dei pezzi veramente che però da un certo punto in poi non sono stati più prodotti, quindi o quelli o non quelli, è come un museo esatto, chiuso. Cioè, infatti, esatto, perché allora in quel caso si può parlare di vintage, se no è veramente soltanto usato o comunque second hand, che può avere un suo gusto, per carità, però non è da confondere. Quindi spesso nei negozi si ritrovano entrambe le categorie, molto più usato e molto meno, o retro, chiamiamolo così. così e molto meno vintage. Io ho sentito però dire questa frase che mi ha fatto molto sorridere: l'orologio di secondo polso, ma non perché era vintage, perché costava meno, un orologio di marca, sì, ripulito, ritaroccato, comprato da qualche strozzino di qualche poveraccio che si è magari sparato per debiti, è di secondo polso, lo vendi, oggi lo regali come nuovo, ma è di secondo polso. Oggi ce ne sono veramente molti. In che categoria è collocabile però questa roba? Dipende, perché comunque ci sono orologi che rappresentano delle forme di investimento e quindi in ogni caso il loro mercato dell'usato c'è sempre stato. Ecco, diciamo che oggi purtroppo, data la situazione economica che ci affligge, se si compra oro si trovano tantissimi di questi oggetti, mentre un tempo erano veramente quasi delle occasioni. Ecco, allora, mi tolga con l'ultima domanda questa mia curiosità. Qual è il discrimine, la linea di separazione fra la scelta di gusto di apprezzare qualcosa il cui tempo passato imprime un valore e la scelta micragnosa per risparmiare? Ah beh, ma questa è veramente, se vogliamo, l'ultima domanda, ma lascerebbe aperto veramente un dibattito lunghissimo, perché il vintage è una questione di gusto, ma è anche una questione di cultura, quindi io credo che la cultura del gusto sia questa linea di confine, la cultura del gusto che ti porta a toglierti dalla massa e a cercare un look adatto a te o acquistare degli elementi per distinguerti, ma è la stessa cultura del gusto che ti impone di non esagerare e di dare al vintage o comunque alla differenza il giusto valore, senza per questo diventare un soggetto assolutamente ridicolo, quindi senza essere capace di portare con disinvoltura certi elementi, e quindi la cultura, l'intelligenza. Io lo vedo in quelle festicciole che organizzano i ragazzi, ma anche quelli un po' più, sì, attempati, quando danno un dress code, vestiamoci tutti, esatto, anni 50, è penoso perché si vestono in un'epoca, esatto, improbabile, che non esiste, non è mai esistita. Diventa comunque un lasciapassare per delle feste, nulla più, insomma. Alla fine io concludo questo mio testo, nel quale ho anche chiesto il parere a parecchi soggetti appartenenti al mondo dell'arte, della moda, del giornalismo, della cultura in genere, e ciascuno mi ha dato la sua definizione di scarsità e il suo più o meno essere incline a subire il fascino più o meno discreto delle limited edition. Però io concludo dicendo che secondo me, dopo, io auspico perlomeno che dopo la lettura del mio libro una persona si metta a pensare al suo rapporto con il lusso e con la scarsità, rivedendolo e dando la giusta importanza a ciò che magari oggi non riusciamo a avere per mancanza di tempo. Allora io le do, il tempo è il più grande lusso. Le do un'ispirazione per una sua prossima riflessione, salutando gli ascoltatori. Consideri che il logo di Instagram, che è il più grande taroccatore di realtà in termini vintage, è cambiato. Non è più una vecchia macchina fotografica, ma è una cosina multicolore, molto moderna, ma che nulla a che fare. Forse qualcosa sta cambiando anche in quella direzione. Grazie Stefano Sacchi, a lunedì. Thank you.